fatto delle prove sotto e praticamente non va perché basta. Se ne hai bisogno io te lo posso restituire, cambio. No, no, non mi interessa, io quella ce l'avevo in più, la usavo prima di usare questa verticale, questa canna a pesca, dai. Non l'hai provata sul terrazzo, all'aperto? No, guarda, non ho provato perché comunque non posso portare il cavo sotto, guarda, non mi viene bene proprio, assolutamente. Ho provato a montarlo al terrazzo, ho fatto alcuni collegamenti con anche con Roberto Quadraro, praticamente è uguale al, diciamo, all'antennino in gomma. Che strano, io l'ho sempre usata qua, certo non, non rendeva come questa 5 ottavi, dai, però mi ascoltavano tutti da qua, anche se era a livello di finestra, dai. Adesso non so le tue condizioni, forse tu sei ancora più coperto di me, sicuramente è così. Quindi tu dai, comunque tutto bene? Sì, tutto bene, tanto io in questi giorni sono entrato un pochino, poco, sono entrato per problemi, non per problemi, per rogne che ho dovuto risolvere. E niente, guarda, devo dire questo, quell'antenna ce l'ho io. Se per caso ti dovesse servire, me lo puoi per qualche amico che magari la può usare, non ti fare scrupolo di chiedermela, tanto. Hai casa come vuoi, dai. Comunque, l'importante è che hai risolto tutti i problemi. Sì, no, guarda, sto provando, io ti ringrazio, sei stato veramente gentile, poi la prossima occasione e io avrei piacere a offrirti qualcosa al mare anche per l'università, tanto. Ehi, capo, aspetta che qualcuno ha bussato, chi vuole entrare? Vabbè, Franti, dici tu. Vabbè, Luca, ti stai ascoltando quando sto parlando dell'apparato e c'è una tecnica diversa, voglio usare la cassa esterna, no? Sto bene Luca, guarda che c'è anche Lupo Grigio, lo senti, sì? Basso, basso, basso, Fra, io ti ascolto fortissimo. Invece solamente poc'anzi mi è arrivato un segnale di 9, adesso un po' si è abbassato. Poi quello fa addirittura mi è arrivato Santiago 9. Boh, qua arriva basso, basso. Luca, mi ricevi? Quindi ti ha rilanciato? È bassissimo, non riesco a tirarlo fuori, Fra, capito? E invece vedi, qui ha trovato il canale adesso che è a mio favore, non l'ho mai ricevuto così forte. Ma dove si trova? Luca si trova un po' più su di me, io sono in basso, al monte è basso, lui è più in alto di me. No, ma non sono al monte, sono giù a Lato Dolce. Allora è per quello, caspita. Ma stai arrivando forte anche tu, eh. Cos'è cambiato? A Pisa, Santa Maria di Pisa. Cos'è cambiato? Rispetto a prima, ho sempre quel radiale che uscendo. Sempre lo stesso baracchino, stesso radiale, microfono diverso, microfono normale sto usando, vado bene, sì? Sì, sì, leggermente diversa, modulazione, però è sempre buona. Il segnale è buono. Vedi, è sempre quel radiale, famoso radiale, dai. Sei no, oltre il 9, sei 9.15. Adesso vediamo, là. Vediamo cosa fare qua. Ma io come sto arrivando piccolino piccolino. Ehi, piccolino. Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Sei quasi sul più del 30. Ah, tu sei cuocuoma, sì. Cosa, Lu? E tu sei cuocuoma, l'ho detto. Ma che uno spagnolo dell'altro giorno, Ah? Lo spagnolo di Madrid, dov'era l'altro giorno? Marolo. Marolo, lo spagnolo. Vediamo se Lupo Grigio ti sente, o al contrario, se sente Lupo Grigio. Avanti Lupo Grigio per Tonino. Buonasera Tonino, qui Lupo Grigio, operatore Nicola, mi ricevi interrogativo? 9.10, 9.5, io sono fuori Sassari. Fuori Sassari dove? Strada per Sorso, dopo San Camillo. Sì, infatti sento forse è strano perché veramente chi è vicino a me non mi sente, invece tu mi senti tanto. Cosa ne so io? Boh, io ti sento bene, te lo sto dicendo. Franco, come lo spieghi? Non vuol dire. A volte l'etere è strana, ci sono dei canali dove tu passi e arrivi bene, anche se sei più lontano. Va bene, rimango ormai che cambia. Ho preso a Fra che io abitavo tempo fa a Sassari, io proprio muro, ossi, non sentivo niente, proprio pio pio, Oggi invece qua dove abito attualmente, in campagna, sento a tutti, è forte pure. Io sono qua a Sassari, vabbè, la mia antenna non è sul tetto, siamo nella facciata. È negativo per me, sia Sorso arriva basso, Muros basso, Ossi, tutti i bassi arrivano. Osilo, tutti i bassi, poi Osilo è in alto per dire, no? Non so perché, ma non lo dicevo bene. Sì, ma io proprio non ci sono a Sorso, Sorso è più in basso, giustamente. Io sono molto più in alto, capito? Io ti arrivo bene. No, non intendevo dire Sorso in generale, no? Tipo Franco, da Sorso arriva basso qua. E di conseguenza anch'io gli arrivo basso. Che è abbassato il biuaro? Non è abbassato il biuaro! Tu esci da quel buco! Ciao, ci sentiamo, ciao a tutti! Ciao, Paolo! Ma Riccardino c'è? Mi sembra di averlo sentito prima, tanto. Non lo so, oggi io ho appena acceso, ho sentito te che chiamavi. Riccardo, ci sei? No, negativo, non c'è. Luca! Obi, mi senti tu lì, sì? Voglia! Arrivo un bel forte qua, Rip. Ma io come ti arrivo là? Sì, sul più del più 30. Ide anche per te. Cioè, sul 3 del più 30, sul 3, sì. E tu lo stesso, uguale. Certo, con un radiale di matto qua. Che vergogna. Io c'ho un nipolo. Vabbè, sono in altra, nel senso a terzo piano. Io ho fatto 5,50, 5,50, c'ho il posto di farlo. C'ho mezz'onda praticamente. Infatti mi saluterà Franco, ciao Franco. Oi carissimo, come stai Claudio? Bene, bene, voi? Tutto bene, dai. E voi a casa, tutto bene? Tutto bene, si tira avanti fra. Tanto scientificamente è peggio. Vabbè, dai, che sto uscendo a farmi un giretto. Ok, ci sentiamo ragazzi, ciao. Ciao, un abbraccio a tutti. L'altro giorno stavo pensando che c'era un tipo al mare, aveva un cane sicuramente come il tuo, ma un tranquillone, sempre bussato. E ti stavo pensando, vai. Di nuovo abbraccio a tutti. Ciao, ripeti ancora a Claudio per i saluti e alle prossime. Ciao Fra, saluto a tutti anche voi, ciao. Vai Riccardo, ciao Claudio. Pure Claudio mi sente, sì, mi senti qua? Sul più del 9, sì. Andava, tu sei 9 più 20 qua, in questa antenna. Io sono col baracchino e senza nulla attaccato, 8 watt, modulati 10. Ottimo qua. E già va bene, questo è il Polmar DX7000, già si difende bene. Dai che vado a farmi un giretto in moto. Ho visto che la giornata è ancora buona. Ciao Franco X. Ciao carissimo. Avanti Tony. Ecco. Ciao, grazie, ci sentiamo. Tipo devo farlo fatto. Anche la posta. Perché giustamente dall'altro direzione non ci posso andare. No, ma manda via email e io tutta la stampante me la porto in carta. Lupo! Eccomi. Certe volte penso la CD ai tempi di WhatsApp. Sarebbe un bel interrogativo, capo. Sì, c'è gente che non sa neanche sia la CB, dai, ai tempi di WhatsApp. Sì, questo è vero, eh. Io gli amici io ho un CB e tutti cadono dalle nuvole. Eppure, comunque l'altra volta ho sentito dalla Puglia pure modulare, quindi c'è una propagazione ottima, capo. Ma Lupo Grigio, tu dove ti trovi, che zona? Io sono in via Principessa Yolanda, via Principessa Yolanda, passa, diciamo. Ma altezza in basso o in alto? No, attualmente sono sopra il terrazzo, di 5 piani. Allora già sei in alto, dai. Ti ricevi bene a me, sì? Un po' bassina, adesso non so se è il microfono o che cosa, da. Ma qua c'è il baracchino, il segnale, lo puoi dare o no? No, negativo, io sono con un portatile, un Anam 4210. No, ho capito. Beh, sto usando un mic normale comunque, dai, non puoi ascoltarmi più forte. Questo che zona ti trovi te invece, capo? Io sono dopo San Camillo, dai, sarà per Sorso. Capo, hai ricevuto, capo. Sono un po' distantino da Sassari, dai. Comunque che già io con un portatile riesco a raggiungerti, per me è una grande vittoria, capo. Capo, avanti, fra. No, arrivi bene qua, Tony. deve avere un bel canale anche nei miei confronti, perché ripeto, la mia antenna è molto bassa. Ogni tanto penso di metterla sul tetto e poi dico, mamma mia, se ne cade tutto, ci vuole un bel palo, perché l'antenna della televisione non penso che regga il peso della canna da pesca, là. Ma è la mia parte della terra, infatti, ho messo un po' di metri, posso levare giustamente. E quindi, poi vedo che va bene per Sassami, non mi immaginavo mai che arrivavo a quelle parti. E questo mi fa un immenso piacere. No, mi stai usando un dipolo, così mi hai detto. Cosa? Stai usando un dipolo, così. Dipolo e anche antenna, ciò. Ma adesso, in questo specifico momento, sì, in dipolo o in verticale? Adesso sono con l'antenna. Ed è una 5 ottavi? Sì, l'antenna è 5 ottavi. Che antenna è? Si può sapere? Guarda, non mi ricordo che antenna è una 5 ottavi della Midland, l'ho presa dalla CBC, ho pagato 90 euro. Interrogatorio? Mia Riccardo, ti stava chiamando Lupo Grigio. Ho capito, ho capito. No, esce bene, dai. Avanti, Riccardo. Bene, di 5 ottavi. Anche Lupo Grigio. Riccardo, qui Lupo Grigio, mi ricevi interrogativo. Positivo a K Roger, sì che ti ricevo, Nicola, sì, ti ricevo forte e chiaro. Bene, bene, rimasti il mic, scusate, era solo una curiosità che Riccardo mi copiava da me. Dai, ti copiamo tutti, Nicola, buonasera. Buonasera a voi. Vabbè, Johnny. Sì, buonasera a tutti, io ero già in ruota e sono andato a prendere questo apparato che l'avevo già conservato, ma me l'ho ripiazzato. Mamma mia, questo da combattimento, eh. Yeah, non ti piace? Ma devo abbassare il volume. Ah, vaga, Sì, sì, sì, sì. Ora? Ah, ecco, ce l'è, no. Sì, sì, c'è. È delicato, però la modulazione è molto forte. Sì, dai, vabbè, dai, sì. Alle volte, Devo comprare un biadesivo buono. L'ho comprato da Bricco, quello di Via Bugino, l'altro giorno mi ha detto questo è buono, non attacca nulla. Perché lo devo attaccare che come tiro si sposta, allora bisogna attaccarlo come ce l'avevo prima. Devo prendere quello della Pantex, se non trovo quello non ne prendo altro perché l'unico buono è quello lì. Un chiodo da 20? Da. Un chiodo da 20 non va bene? Mette i chiodi sopra gli altri apparati, se lo devo attaccare con la staffa sopra l'alimentatore. No, stavo scherzando, dai. Nel muro lo metto. Un chiodo, gli fa un foro da 6 prima l'apparato, passante da parte a parte e poi gli metti il chiodo da 20, sul tavolo direttamente. Facciamo così, da. Antonino! Capo, non lo grigio, non mi ascolti in radio adesso. Ma adesso ho messo il microfono al tavolo, dai. E a te fa, meglio, dai. No, per me va bene, dai, non so, non nessun problema, arrivate forti tutti. Anche Riccardo, stranamente oggi mi sta arrivando un segnale di 9 abbondante. Cosa hai combinato, Riccardo? Si usa un altro apparecchio con pochi più watt. Sì, poco, da 1,5 sta arrivando a 9 più 5. Cappa, se metto l'apparecchio da 2,5 watt, sicuramente non mi ascolti, forse, basso. Sì, no, così va benissimo, dai. Va benissimo, stai sempre migliorando di giorno in giorno. Luca, ci sei? Sì, sono qua, mi sto ascoltando e giocando con il telefono da questo shorter. No, non lo conosco, che gioco è? Su Facebook, dai. Praticamente giochi tramite chi fa più punteggio, là, con gli amici. Ma in cosa consiste il gioco? Molle. Ho capito. Mille bolle blu. Ma mi senti anche tu? Riccardo, mi senti? No, non ti ascolto, sei proprio basso, sì che ti ascolto. Com'è questo apparecchio, dai? Adesso sono con 1,5 watt, dai. Come va? Sempre forte da questa antenna. Vabbè, noi siamo vicini. Muros! Ruggerito, andatosene. Sentito, da quando siamo entrati non abbiamo sentito. Perché io come ho mollato per cercare l'apparecchio, sicuramente se n'è andato via, Non lo so, io ho sentito che chiamava Lupo Grigio e ho risposto alla sua chiamata. Ricardino! Ricardino! Ricardino, ci sei? Attenzione, Ricardino, Gabi! Ai Giannini! Passato, passa Gianna! Bravo! Mi accorti? Mi accorti, ma è chi qua? Kappa! Con che appare che stai andando? Con Taffo! Che gli ho messo la capsula, ne ho trovato un'altra, lo sai. Manda foto su WhatsApp, manda. No, già te la mando dopo perché sono bugucato. Ne ho trovato una, però non lo so se vada bene. Lì è perché c'ha il suo alloggio giusto, capito? Se no sarebbe dovuto spaziare. Vabbè, già. Misura la altezza almeno se è da 500 ohm. Vabbè, ma poi va bene lo stesso, nel caso si prova, se non va bene te la restituisco, non c'è problema. Oh Luca! Eh? Adesso ti batto subito, ho trovato quello che stavi giocando. Hai trovato, io batti. Io sono arrivato a 750.000, quasi 800.000. Ma quel gioco lì, allora ti spiego. Se tu le buchi tutte, non fai il record, cioè non fai il punteggio, capito? Devi accumulare e mano a mano farle scendere e scoppiarle. Però non è facile. Beh, devi fare le file, no? Più lunghe possibile, così accumuli più punti. Sì, perché tu se le scopri tutte non fai niente, finisci lo schema e basta, boh, finito. Invece tu devi, praticamente quando hai il tiro, adesso il rosso ad esempio, no? Poi c'è il rosso, celestino, verde, giallo, e magari ce l'hai, lo puoi buttare giù, non lo butti, ma non pare che poi ti scenderà un po' la schermata, altrimenti succede che le scopri tutte, là, diciamo, non tutte assieme, però non è facile, dai. Più o meno simile a quello che giocavo prima io, però. Devi fare prepararti i vari colori e poi tac, il petto giusto inserito e facevi un bel punti. Esausto, avanti Tony. Ecco. Niente, io mi sposto al baracchino e mi mangio un gelatino, ci fa anche a prima. Sì, pareva sì. Riccardi, anche tu mangi un bel gelato. Sì, mi mangio una bella cacciata che è in freezer. No, io sono contento, ho quelli nuovi, sono usciti che c'hanno Mestrano, tipo Magno, cioè Magno, biscotto e cucciolone. Allora vediamo, devo ci farà. Non mi accassate tu mio, Riccardo. Com'è questa, Riccardi? Tony, tu che cos'hai? Gelati tarocchi? E cioè come sono i gelati tarocchi? Quelli della sottomarca. No, io vado sempre da Ocean, sono 4-5 scatole per il freezer. Quelli strani, tipo il... vabbè, lasciamo stare, quelli che non sono di marca prenderai sicuramente. No, gli ultimi usciti ho preso io da poco, le candidate, prende il croccantino, il cucciolone, capito? Questo già non sono di marca. Va. E i cornetti sono Algida, cuore di panna. E su, mamma mia. Vai, che bella la pannuccia, continuate. Tony, via buccia di gioga. Meglio la buccia di gioga, no, meglio il gelato. Sicuramente. Oh, se non piove neanche a gioga ci può andare. Cosa, Franco? Se non piove neanche a gioga possiamo andare. Veramente, proprio. Ce l'ho già pronte da fare, mi domani le faccio. Gioga grande? Sì, gioga grossa, ecco qui. No, a me piace, con cui non tanto, più le lumache, le lumachine, le monzette, così. Ma le lumache sì, li mangio, ma non ci vado matto. No, ma che a me piacciono, hanno quel sapore di selvatico, bisogna saperli fare, bisogna metterli l'uovo, fare il grattugiato mentre stanno cucinando, insomma, bisogna saperli fare, però il sapore rimane sempre quello del selvatico. Sì, ma già c'è la mia suocera che li fa bene, perché ti fa sfogliare prima col sale, poi gli tutta la bava e poi li fa ripieni, dai. Io quel lavoro glielo faccio 3-4 volte anche. Li tolgo la bava, poi li rilavo, poi li rimetto il sale, quando escono li faccio togliere tutta la bava. Quando sono proprio sbavati, li metto nell'acqua fredda, di modo che loro escano. e poi l'acqua loro cercano di uscire, non ce la fanno perché ce la prende il coperchio e rimango tutti HBV. Anna figurami, buon pomeriggio. Aspetta un attimo di bianco per me, torno subito che mi allontano un attimo dalla radio. Io comunque sono andato a casa mia a Palermo, ho dovuto giurare sul Santo Vangelo perché non credevano che in Sardegna si mangiavano la carne dell'asino. Mia, Palermo ti è andato? No, è la prima volta che sono arrivato qui, anni fa. Non credevano che si mangiava qui la carne dell'asino, capito? Vabbè. Mi sembra che invece io mi ricordo in Sicilia che non mangiano il porcetto piccolo, dai, mangiano il maiale un pochettino più grande. Si conferma, non è nel nostro gusto mangiare il maiale, più il pesce, pesce spada e tutte queste cose. Il capretto, però il porcetto, quello piccolino, come la carne di cavallo, non è nel nostro gusto, non è nella nostra cucina. Infatti tutta Palermo si annotti tra uno o due macellerie che la vendono e si mangia per medicina, per far venire i globuli rossi da me. Sì, mi ricordo questa storia, mi ricordo. Va bene. Luca? Luca Riello? Sarà mangiato. Anche lui? Tutti i manieri. Chi c'è rimasto disponibile? Oh, Riccardo, anche lui stai mangiando? Mi sono allontanato un attimo, Franco, sono qui comunque, sì, ci sono. Come ti arrivo a quell'apparato? Poi mi dici anche che apparato è? Mi stai arrivando Santiago 7, Radio 5, Radio Super 5. E l'apparato è un baracchino. Anonimo così? Per baracchino è il Tornado 34S, se lo conosci. Sì, lo conosco, di visito, dai. Chi è, vuole entrare? Sono io, scusami, che mi stava incantando la portante, perché tocca, invece tocca e non tocca questo capo di spinotto. No, nessun problema, dai. Capita che a me a volte appoggio il gomito. Ahia. Sta uscendo bene, sì, questa parte, che era un po' di giorni fermo. Non bene, di più. Vagava. Vabbè. Me l'ho rimesso in stazione, dai, fa colore qua. No, esce bene, ben regolato quell'apparato lì. È un watt e mezzo mi sta uscendo, un watt e mezzo. Diciamo che è regolato così perché loro lo regolavano per attaccarlo con lineare, quindi hanno regolato un watt e mezzo. No, arrivi fortissimo, anche se è un watt e mezzo. Caspita, poi la radio è molto presente, chiara, senza essere troppo, troppo forte, proprio bella. Ma è sicuro un watt e mezzo? Io ti sento fortissimo. Lo so che mi senti fortissimo, però è perché ha il doppio modulatore questa qua. Guarda adesso quanto mi ascolti. Così sono 50 watt. Guarda, per quanto mi riguarda con le portatile non è cambiato granché. Ti ho cambiata, tutti i denti. Sì, qui sale poco perché sei già forte, però sale. Tardi. Cosa c'è già? Cambia. Cosa Gianni? Non ho capito. Cambia in questo passaggio, guarda, da questo, adesso lo spengo, a questo, guarda se cambia. Un attimo, stava sovramodulando allo suo grigio, povero. Sì, no, già non cambia molto da questa parte, va sempre bene. Bene, là, già cambia comunque, già provato la situazione. Cambiare cambia da 10 punti S in più. Va bene. Lupo Grigio, che cosa stavi dicendo? Scusa. No, stavo facendo i controlli con l'amico. Ora io ti voglio lasciare un tema da fare, posso? Avanti. Tema, la CP ai tempi di WhatsApp. Movimento, capo. Sto fischiando, non si capisce nulla, Lupo Grigio. Chi è che sta fischiando, scusa? Che rompi palle. Ci sta lasciando un tema da svolgere. Ha detto la CB ai tempi di WhatsApp, svolgimento. WhatsApp non l'ha fatta morire. Va bene, fa lo svolgimento, almeno tre pagine. ce ne viene, capito? Allora dammi tempo. Dai, ricordi che sto scherzando comunque. No, già lo so, Nicola, già lo so che stai scherzando, vai tranquillo. Io ho ricevuto una bella notizia, per questo sono allegro. A novembre divento nonno per la seconda volta, capito? Quindi sei bisnonno? Insomma, due volte nonno, dai. Poi quando nasce il bambino andiamo al mare, vi invito a tutti a bere qualcosa, capito? Cavolo, no, stavo scherzando, bisnonno è un'altra cosa. Comunque, che faremo i complimenti allora tra... No, è già nato, così è? No, negativo, dovrebbe nascere i primi di novembre, capito? E allora abbiamo tempo e luogo per farti i complimenti. Sono l'unico nonno della frequenza, capito? Nicola, vedi, questa è una buona notizia. Non penso che Riccardo sia nonno, boh. Grazie, capito. No, Franco, io sono bisnonno, non nonno. Non lo so, chi c'è qua? Non lo so, Tonino, hai mangiato il gelatino? Ma l'ha mangiato 3 o 4. Chi si sta mangiando tutta la scatola? Vediamo un po', tu Gianni sei nonno? No, negativo. Neanche di Tyson? No, di Tyson sono il papà io, mio figlio Tyson. E io dico, non so se si è riprodotto o no. Ma no, niente. No, no, perché ce n'è una sola Alghero, uguale a lui, della stessa razza, però l'ha vista un amico mio e mi ha detto, guarda che ci ho parlato col tipo, e te perché non è che se rompe il telefono, che l'avremmo fatta accoppiare. E mi ha detto, mi farebbe piacere accoppiarla, questo e quell'altro, e però non gli ha chiesto il numero, non ci ha pensato, ha detto. E dice, comunque se vai al ghetto magari lo trovi, sì, dobbiamo avere una fortuna sfacciata. Piove! Aia, apri l'ombrello, lupo! Non ce l'ho, maledizione, se continua a piovere devo scendere, cazzo. Anche perché è anche un po' pericoloso. Qualche fulmine che colpisce l'antennino qui. Dai, stai attento. Vabbè, allora guardate, io vi saluto, per adesso scendo, se poi casomai vengo dopo. Comunque Franco, per quella cosa che ti ho detto prima per l'antenna, tu hai il mio numero, quindi se hai bisogno chiamami o mi mandi un messaggio, capo. Capo, no, tranquillo. Magari se capita qualche giorno faccio la scappata e proviamo a montarla. Se c'è qualche problema, proviamo con qualche strumento a regolarla. Che mi sembra strano che esce, che non è che esca come l'antenna portatile. O è molto buona l'antenna portatile. Non lo so. Comunque, alle prossime. Avanti Gianni. Ciao. Arrivo subito. Ci stai andando, buon pomeriggio. Ci sentiamo alle prossimine, dai. Buonasera. E al limite posso andare nel poggiolo per vedere se mi sentite. Qua sta piovendo e devo scendere. Saluti, ci sentiamo dopo, capo. Vai. Cazzo, quando lavo la macchina io sempre si mette a piovere, io non capisco. Comunque, ciao, Lupo Grigio, quanto ho capito stai andando via e come detto ti saluto, buona carica quando la fai e vado un attimo in bianco. Pagava. Vabbè, ho messo questo apparecchio perché l'avevo tolto per venderlo, poi ci ho mezzo ripensato, è troppo bello questo apparecchio. No, un peccato davvero. C'è un bel forte. Però devo trovare quel biadesivo buono, perché se non mi attacca, come va a tirare il microfono, mi tira anche l'apparecchio. Vabbè che ha il capo morbido, Questo biadesivo non è... col caldo si stacca. Non c'è un altro sistema, tipo felcro, non puoi mettere niente. No, col felcro non fai niente. E praticamente questo biadesivo... quello della Pantex che sto dicendo io, se tu vai a staccarlo, pieghi la staffa ma non si stacca. Ma me le chiudi? No, no, è Pantex. Il Pantex fa anche il mille chiudi, che attacchi qualsiasi cosa, anche al muro. È il mille chiudi, è un'altra cosa. Questo qui è biadesivo, ha il nastro rosso sopra ed è il più potente che io abbia mai provato. Cioè, io ho provato a staccarlo, gli ho dovuto passare la lenza, scaldarlo col forno e passargli la lenza sotto per staccarlo. Immaginati tu. Infatti ti volevo chiedere, col caldo come si comporta? Ebbene, non si stacca. Anzi, di più attacca. Quindi andrebbe bene anche in macchina, qualche accessorio che devi attaccare? Un portatelefono, qualche cosa? sì, bisogna vedere però se tu ci hai messo l'uscita a cruscotti nella macchina dove devi attaccare, perché se hai messo l'uscita a cruscotti non attacca più nulla. No, già non li uso io quelle cose lì. Oh, acqua e sapone, boh. Vabbè, io diciamo che questa nuova no, ma nelle altre macchine le ho sempre usate l'uscita a cruscotti per fare belle lucide, specie quando devo uscire con qualche pipellina per tenere tutta bella profumata, ecco. Vabbè, da ragazzo sì, già l'abbiamo, già lo usavamo anche noi, qua difficilmente ne usiamo, anche perché a volte mi sembra che poi ci attacca di più la polvere, la vedo di più, boh. Adesso le sto passando un panno di pelle e umido e basta. Sì, va bene così. Poi vai a lungo andare può fare anche danno l'uscita a cruscotti, mentre te lo screpola. Non è mai screpola, perché secondo me l'uscita a cruscotti usi. Io usavo Allegrini, sono di quelli migliori. Oppure mettevamo la zuccherata nelle gomme della moto. Per un anno erano già tutte screpolate. Una volta ho conosciuto proprio il padrone dell'Allegrini. E dove? Sassa, diceva il baracchino, stava modulando e ha chiesto dove poteva andare a mangiare qualcosa, che era col furgone, stava facendo delle consegne qua e non c'aveva un ragazzo in quel periodo, è salito lui qua. E fatto sta che gli ho detto qua, dammi un attimo di tempo e andiamo insieme a mangiare, ti invito io. E siamo andati da un amico e gli ho invitato, non voleva che gli pagassi il pranzo, ma fregatene, cosa ti ne affutti. E ci siamo conosciuti. E lui mi ha detto questo, che i figli gli ha insegnato sempre, i soldi adesso dice ci sono. Però gli ho insegnato un giorno a mangiare le paste a colazione, un giorno a mangiare col pane duro, perché un giorno o l'altro potrebbe andare male la situazione e praticamente gli ho insegnato, li ho abituati a vedere un po' una cosa e un po' l'altra. Sì, è così, l'insegnamento giusto sarebbe quello, ma sicuramente il pane duro era una metafora, dai. Non penso che gli dava veramente il pane duro, però gli ha insegnato che la vita non è sempre rose e fiori. No, ma io il pane duro a pezzi, a me mi piace, mi è fatto tipo bruschetta così con l'olio, lo conservo apposta per farmelo a pezzi. Ma anche a volte pescando, io a volte fatturo con un po' di pane duro, qualche volta glielo do, sempre che se conosco il pane, certo, se è roba che ha mandato da me, asciugata diciamo all'aria senza muffa. No, io, il mio non è ammuffito, non si ammuffisce, io lo metto dentro una busta di nylon e quando, siccome lo conservo, perché a volte mi dimentico di cucinare la pasta a Tyson, invece della pasta ho il pane inzuppatolo nell'acqua, poi gli metto formaggio, gli metto la carne, eccetera, eccetera, e se lo mangio. A volte la mandronia magari mi dimentico di cucinare, per l'ora di pranzo non mi piace stare a cucinare altra roba perché magari è tardi, allora gli do il pane, ma quella sera gliela faccio. Ma non è peggio nella busta di nylon? Io nella busta di casa lo conservo. Vabbè, quando lo devi mangiare tu, ma è la busta di nylon, non li fatti nulla, no? Se non lo devi mangiare tu. Perché nel nylon no, fa la muffa secondo me, invece nella busta di carta l'umidità che c'è dentro il pane evapora e quindi si indurisce all'aria, capito? Non lo so, io faccio il contrario. No, io qua lo do anche agli uccelli, gli uccelli fanno ghiotti di pane duro, lo mangiano bene. Gli do anche il biscottino, però gli do anche il pane duro e lo mangiano bene. Se ne metti un bel pezzo lo trovi quasi alla fine. Si parla su ricetta, là. E a volte c'è Luca o Tonino. Sì, io mi sono assentato, sono andato a lavarmi, adesso mi sto mettendo le lacci alle scarpe, sono qua in ascolto. Anch'io sono qui. Sì, a voi la gente, dai. Ah, perché ti lavi o lui? A me mi tocca venerdì prossimo. Guarda, allora, dall'ultima luce mi sono fatto io era il 12 maggio. Io prima del Covid. Il 12 maggio mi sono lavato, ho fatto una bella doccia, oggi mi è toccato, dai. Non bella bella come quella del 12 maggio, ma quasi, dai. E siamo a posto adesso, per un altro paio di mesi. Allora, fate il conto, maggio, siamo in giugno, ad agosto, a fare agosto. E sempre che non faccia a casa, se no anche a fine luglio, dai, dipende. I candelieri quando accendono? Ah, rimandare, a settembre mi ha detto la doccia adesso, sì, al 25. Cioè, rimandate a settembre i candelieri, cosa hanno combinato? Non hanno studiato allora? No, quest'anno non scendo per quanto riguarda questo Covid-19, là. Qui assembramento, perché ballacche, niente, non scendono. Allora, metà settembre, 14 settembre. Bene, Riccardo, e tu? Quando è che ti tocca la doccia? Riccardo. Non è rientrato Riccardo. Io non me ne faccio, se lo consumo acqua, luce, allora non me ne faccio. Mi stanno sempre chiamando, scusate, mi sa che non ce la faccio oggi. Un attimo, mi stanno chiamando di nuovo. Allora Riccardo, ti ho visto la stagione passata, ci hai passato sotto casa, neanche salutato, vai. Boh, io cosa ne so, non so neanche come sei fatto di fascia. Non ti esce l'immagine nel baracchino, non la vedi la mia immagine, nel mio profilo? Sì, so anche quando vai al bagno. Allora, lì bisogna fare qualcosa. No, ti ho visto passare col camper, cos'era, domenica sera, stavate rientrando. Va, sono andato di me, Luca. Impegnato, così, e via. Ma niente, comunque, a parte gli scherzi, non se ne fa per risparmiare acqua, luce. Colleghi miei, allergici all'acqua, cazzo, mamma mia. Oh, a volte glielo diciamo pure, ecco. Lavatevi, cavolo. Se me ne racconto una, mio cognato me ne ha raccontato una, che c'era questo del Nuorese, con lui facendo il militare, no? E la notte, cazzo, ci crepava dalla puzza dei piedi che ci aveva questo qua. E praticamente gli hanno messo fuori le scarpe. E nel calze dice che tu le mettevi e stavano dritte, cazzo, quanto erano... Perché le metteva dentro le scarpe e metteva le calze. E quando se le toglieva. E faceva un odore, cazzo, allucinante. Una notte sai cosa gli hanno fatto? L'hanno preso, gli hanno detto adesso vai, prima di venire a letto ti fai la doccia, perché noi non dobbiamo stare a odorare l'odore tuo. Cazzo, dice che era un fiago, dice portava questi formaggi e queste salsicce che erano omicidiali, però cazzo era buttinoso. Beh, ci avevano le docce tipo salù così, no? Che si apriva la cosa. Oh, gli hanno aperto di colpo la doccia e hanno trovato lui appoggiato al muro e la doccia scendendo da sola senza bagnarlo, capito? Era allergico all'acqua. Scusate, una volta la sera andavo in campeggio da ragazzi e arriva questo amico nostro e poi di soprannome addirittura si chiamava ancora Saponetta, non so se lo conosci, di Sassari. Mi avviavo di bene e volevo dormire in tenda con noi, minchia, non si poteva alzare. Sai come l'abbiamo fatto dormire? Quei piedi fuori, abbiamo chiuso le cerniere con i piedi fuori, la mattina era tutta romandiato. Successo facendo servizio ambulanza, un notturno con una persona che non voglio fare nomi, puzzava come un maiale, puzzava, madonna santa, non riuscivo a dormire da ubriaco, ma un odore puzzinoso, il vomito faceva venire. Certo che in ambulanza, in ospedale, già ne vedranno di tutti i colori, mamma mia. Sì. Certo, ne abbiamo portato uno che lo lavava, l'hanno lavato con la pompa, immagina. Oh, Fran. Pulli il vapore, dimmelo. Dicono, l'ho sentito dire che la barba, io c'ho la barba, non lunga, c'ho la lunghetta, pizzetto, no? Dicono che come si dice? Che chi ha la barba le pulci. C'è la barba lunga, no? Tipo, no, ma vabbè, anche come la mia, un po' lunghetta, no? Ha le pulci. La barba quando tu ti fai, ti lavi i capelli, poi se non c'è bisogno di dire, te lo prendi, ti passi lo shampoo e ti lavi anche la barba. E io mi metto anche il balsamo, non solo. Allora basta, cosa pulci? Sono tutte dicerie, tutte di gente popolare che non sa le cose. Dicerie sono, le pulci ce le ha, chi ce le ha? Guarda, io il mio cane non l'ho mai visto una pulce, una zecca, niente, mai. Però c'ha sempre le fialette, sempre delle mette. Allora, l'una le pulci sì, la verità. Li ha avute. Le snecche, per quanto mi riguarda, per quanto mi ricordi io, in 12 anni non ne ha mai avuto. Pucci dove se le ha prese? È pieno di gatti vicino a casa già. Ma c'è il collare lì, il collare che dura 10 mesi. Via. No, no, io li metto la fialetta direttamente. Il collare per molti cani che sono allergici li fa male. Li fa perdere tutto il pelo, come è successo a Martino, un cane che abita, che c'è vicino a casa. È tipo uno Yorkshire grande, ma bello, però è un bel cane. Gli ha messo il collare antipulci e dai, è irritato, gli ha fatto perdere tutti i peli e l'ha portato al veterinario e gli ha detto che era il collare antipulci, gliel'ha tolto e in poco tempo gli è cresciuto il pelo. E non fanno, tanti cani sono allergici a quell'affare, non sono tutti che lo accettano. Vabbè, allora già si è ripresa, è più tranquilla adesso. Adesso ho trovato un metodo. So come rompergli le scatole. Quando io gli prendo la zampa, dico dai, io tagliamo le unghie e lei inizia a ringhiarmi. E so che sta bene. Però se non si capita che non sta bene, ci provo, se vedo che non mi ringhia vuol dire che non sta bene. No, a te se io le taglio io, tranquillo. Però li taglio solo quella laterale della zampa di davanti, perché quella lì non la raschia, le altre le consuma lui rascando in terra, scavando e facendo. Solo quell'unghia lì, perché sai cosa fa? Un giorno lo vedo zoppicare, che cavolo c'ha? E non gli c'era infilata l'unghia dentro l'anello del collare. Cazzo! E c'aveva la zappa alzata e camminava con quelle zappe zoppicando. No, parlando comunque mi sono messo anche là c'è le scarpe, io l'ho avvate. Sono uscite nuove come se me lo stai al negozio. Cava che era. E dice che si scollavano Fabio Master, ha detto non sono scollate per niente, basta lavarle con l'acqua, poi queste qua hanno la cucitura, non è che sono incollate, sì, hanno anche la colla, basta lavarle con l'acqua fredda, non si scollano, se certo se li lavi a 40-50 gradi si scollano, sì, escono pulite, ma sono uscite benissimo già. Poi nel, siccome sono bianche, no? Nei fianchi gli ho messo un po' di latte, per levarne un po' di nero. Già mi fanno qualche anno ancora. Che scarpe sono? Le Adidas. Ora metti la lavatrice. Mi ho già messo la lavatrice già. Faccio un bucato di cose strane. Metto le scarpe, ci metto tutte le copertine di Tyson che lasciano il pelo, quindi con l'altra roba non le puoi lavare. E poi tutto il tappetino che uso sotto nel lavabo, tutte queste cose qua, dai. Le lavo tutte insieme, insieme alle scarpe, escono tutte belle di luce. Ma come le lavi a freddo? No, con la lavatrice a caldo. Non mi sono mai scollate a me, io vabbè, queste qui le ultime ce le ho da poco. Ogni tanto le lavo perché come va a portare il cane, a volte le sporchi, le fai, allora ogni tanto, perché poi me le ho prese tipo per dare l'evidenziatore di quello verde, ce l'è presente, in quel colore lì. Ma se avevo dimenticato di mettermi il deodorante. No, io ne ho trovato solo uno di un paio di scarpe che mi facevano fiaggare i piedi, ma perché non respirava il piede, erano di quelle scarpe comprate dai cinesi, le ho prese per lavoro, ma la sabbia sudavi come una cosa, ti puntavano i piedi, io mai odore i piedi ho avuto. E con quelle scarpe però ce l'ho dovuta mettere da parte, c'erano nuove, non le ho mai più utilizzate dopo che abbiamo fatto questo difetto. Ehi, conservatele ancora, lampazzini, quelle fanno odore già prima di metterle, c'è già quella plastica strana, no? Così è già. Ma non traspira il piede probabilmente. Oh, bianco latte. Vediamo se Riccardo si è rientrato. Tonino? Allora bacio, ma dove è andato? Da Arneto a prenderci il gelato. Quanti anni ha Tyson? Già. 2 anni c'ha. Quanti? 5. Quindi è giovane ancora, dai. Ma che già è in età fertile, dai. Sì. Penso che i maschi si riproducono fino a vecchiaia, io ho dovuto fare la sterilizzazione, la castrazione chimica per una settimana, perché era sempre felice, era, perdeva sangue, capito? Mi sembra, l'avevi già detto, caspita. E quello di Luca, mi sembra, lo doveva operare, l'aveva operato il cane, stava male, no? No, non hanno operato perché c'ha tumori da tutte le parti, mi pare c'è metastasi e cose, però siccome essendo anziano quello di Luca, le cellule sviluppano molto lentamente. Come le persone, è meglio che ti prenda l'anziano, meglio che non ti prenda niente, però potendo scegliere è meglio l'anziano che... perché è meglio, le cellule si riproducono più lentamente. È vero, papà aveva a 96 anni, ci ha preso il tumore alla prostata e il dottore ci ha detto: guardi, può campare altri 10 anni, per quello non muore, non si preoccupi. È che già c'ha 96 anni, capito? Ma non è certo il tumore che lo fa morire. Grazie a Dio. Ed è ancora vivo oppure a quanti anni è morto? Morto a 96 anni. Ah, è morto. Quindi si è preso il tumore ed è morto, poverino. Sì, quando praticamente stava male, gli hanno fatto le analisi e hanno detto che probabilmente aveva il tumore alla prostata, ma no, forse non ce l'aveva quando gli hanno scoperto, ce l'aveva già da un bel po'. Comunque è un bel traguardo, comunque, caspita, 96 anni. Cazzo, mio padre andava in giro da solo, se ne usciva la mattina, trovava gli amici, portava a Sant'Antonio, a Sacrocuore, alle biciclo, poi li sono usciti tutti gli amici, dice: io dove vado? Non c'ho più amici. Sono un grifo, proprio io. Vabbè. Anche mio padre, grazie a Dio, è che no, non vorrei farlo più guidare, invece lui non vuole mollare la macchina, caspita, non so come fare. Quanti anni ha? Quasi 90 ne ha, però ultimamente sta prendendo colpi di memoria e non lo so, non lo vedo brillante. Sto facendo di tutto per non farlo guidare, ma se la sta piegando. I riflessi, figlio. E vabbè, dai, adesso quando dovrà fare il rinnovo della patente vediamo se la danno di nuovo. Ha fatto da poco, vanno fare ai privati che lo fanno, addirittura gli hanno rinnovato a 2 anni, figurati. Allora vuol dire che è in grado di... che è arzillo, va? Fisicamente è arzillo, ma è la memoria che lo frega, ecco. Lui si sente in forma, ma non è così. Me ne accorgo anche quando parla, non gli vengono le parole. Non lo so, per me sarebbe meglio che non guidasse, ma lui non vuole mollarla. Tipo consolare, sono qui 20 anni buio, a volte vado a prendere la roba, non mi ricordo cosa devo prendere, immagina. Sì, capita anche a me, a volte accendo il computer e avanti, cosa devo cercare? Manco me la metto e lo spengo di nuovo. Di mettilo in conto. Sì, in genere è sotto un albero di ciliegie, trovi ciliegie per terra, così. Se l'albero è quello, anche i figli saranno così, ma speriamo di arrivarci alla società. Lui ha peggiorato questi ultimi anni, se no prima era vispo anche di memoria. Adesso invece, specialmente la memoria, non dico breve, ma quasi, perde colpi. Ma lei si ricorda cose vecchie, mi? Sì, vabbè, arrivati a una certa età ci sta, dai. Diciamo che mia suocera ne ha 92 ed è arzilla ancora, e anche lo si bate. Lei sta guidando? Oh, lei dicono, lei non ha mai avuto patente, no, lui è morto a 91 anni. E lei adesso ne ha 92, avevano la stessa età, avevano pochi mesi di differenza. Tutte e due le famiglie, come si dice, longevi, da? Ho fatto tutta la vecchiaia insieme, più di così. Certo. Ma mia nonna, mi sembra, è morta, ne aveva 98, ma anche lì mai visto ospedali, sempre sana come te nubische. D'accordo, mia nonna, allora, mia nonna è morta allo stesso all'età di mio padre, 96 anni. Ma sai perché è morta? Perché è caduta, gli si è rotto un femore, è stata allettata per questo femore, ha preso piaghe, questo, quell'altro, e si è complicata la situazione, ha preso infezione, eccetera, eccetera. Perché se no mia nonna si alzava alle 4 di mattina, loro ci avevano la fattoria, la vado a mangiare alle galline, gli faceva l'erba tutta a pezzettini con i furbici, si prendeva questa erba che era medicamentosa, loro la conoscevano perché erano contadini, quindi poi c'aveva la conigliera, dava da mangiare i conigli, c'aveva tutte le bestie, dava da mangiare, poi si preparava e alle 7 andava in chiesa, si comprava il giornale e lei leggeva il giornale senza occhiali. Caspita, un gamba davvero. Anche mio nonno era così. Io mi ricordo nell'orto tirando l'erba a mano, cioè piegata a squadretta, ma neanche io mi piegavo così. Mi arrivava non con le mani, con i gomiti arrivava per terra. Perché la ragazza ha sempre lavorato, e anche loro erano animali, hanno avuto la macelleria, campagna giù, a Villa Gorizia, e mi hanno tribolato, vai. E grazie a Dio sono arrivati, no, mio nonno non tanto, mi è morto che ne aveva 70, invece lì è arrivata a 98 anni, io pensavo che arrivassi a 100, tranquillamente, perché era sana come un pesce, invece un colpo al cuore, e ci è rimasta secca. Così mamma, 72 anni, mi è venuto un infarto e praticamente l'hanno ricoverata più di una settimana in terapia intensiva, poi l'hanno messa in camera, è andata in bagno, non tornava più, c'era una signora che doveva andare in bagno, stava aspettando che tornasse lì, vedeva che non tornava, è andata a vedere, l'ha trovata in terra, ha chiamato gli infermieri che c'erano in bilenio di un caffè. E adrenalina, questo, quell'altro, niente da fare, ci è rimasta secca proprio. Sì, fulminata, ma anche mio nonno così, un colpo a terra, mia nonna si è alzata, mi sembra, per preparare la colazione, al ritorno era già, lo chiamava, invece era già morto, ho provato a rianimarlo, mi ricordo, io avevo 10 anni, non c'è stato niente da fare, ma prendeva già patilli, mi ricordo, per il cuore. Già cardiopatico, No, ma mamma, sai cos'è? Che a mio padre l'avevano ricoverato perché doveva prendere delle pastiglie molto costose. E mi pare che costava sulle 300 euro, sulle 30 euro la scatola, mi pare, una cosa del genere. E il dottore gli ha detto, sì, mamma, vada, si fa ricoverare, viene a fare in ospedale gratis, chi glielo fa fare pagarle, e lui si è fatto ricoverare, ma non è che stava male, chissà cosa. E mamma, siccome era attaccata a un bel mio padre, stava avanti e indietro, e va sì, questo sforzo che ha fatto, e cosa, mio padre dice, ma non c'è bisogno che vieni tutti i giorni, dai, non ti preoccupare, che tanto io non è che stiamo né per fare queste lezioni, lo sai. E purtroppo si è sentita male in ospedale, l'hanno fatta coricare in un letto e poi è tornata a casa. Adesso il dottore, quando mai, che tu vedi una che sta male, non è che la controlla, cosa può avere. Niente, l'ha mandata a casa, mi chiama da casa, mia madre mi fa, oh già, dimmi ma. Non ti volevo disturbare figlio mio, però c'è un dolore forte, abbraccio sciso io, come ho sentito così, ho addestrato le antenne. Cosa ti fa male? Anche il petto, gli ha detto sì, sto venendo a casa. No, figlio mio, forse non c'è bisogno, dai, ma lui aveva sempre paura di disturbare gli altri. Sono andato a casa e ho detto, cazzo, c'avevo le chiavi della sede, adesso vado, prendo l'ambulanza e la carico. Poi ho pensato, ma non c'è nessuno dietro. Allora ho chiamato un'altra ambulanza che mi conosceva una cosa, ho detto, qua sono Gianni e... Sì, stiamo arrivando, l'abbiamo preso e l'abbiamo portato all'ospedale e da lì è stata una settimana in terapia intensiva, ma parlava tranquilla, figlio mio a trovarmi sei venuto, quanto stai bene vestito così, sempre facendo complimenti e cose, ho capito. Poi mia madre era di quelle che intrattenevano gli amici, quando venivano a prendermi gli amici, se io mi stavo cambiando, lei li intratteneva, li faceva ridere, cos'era, era di greffa, capito? E così ha fatto all'ospedale, c'erano delle ragazze giovanissime ricoverate per infarto e lei raccontava, faceva, lei dice, ah, tua madre è speciale, dice, è proprio una donna speciale, ci fa passare la serata che nemmeno ce ne accorgiamo. E quando è morta questa ragazza stava piangendo come una bambina, diceva, è proprio lei, se n'è andata, proprio lei, che era così brava, ci faceva ridere, ci raccontava barzellette, gli fa, lo so, purtroppo, cosa deve... ho dovuto consolare io a questa ragazza perché stava piangendo, figura. Come se fosse una figlia, dai. Allora, perché giovanissima, amici, avrà avuto... se aveva 25 anni era troppo, ha avuto un infarto, capito? E non guarda in faccia a nessuno, quella è una mala sorte. Non hai sentito di quel corriere che ha suonato il campanello al monte, ha suonato il campanello, signora scende per cortesia, c'è un pacco per lì. Questa scende, gatto, la ci ha fatto un muso in terra, gli è venuto un infarto e è rimasto morto sotto il campanile. Ma ho sentito poverino, caspita. Anche quello, magari lo stress lavorando, per cui questi corrieri sono maltrattati, mi devono fare le consegne una presa all'altra, caspita, sono ben stressati. Vediamo se ci parlo con qualcuno, mamma mia. Solo vanno manca a mangiare, ci mangiano un panino veloce, perché l'ora di pranzo è l'ora che trovi la gente, capito? Sì, sì, lo so. Si lamentano e favorati. Lo stipendio non è che sia neanche chissà che cosa. E GLS e Bartolini sono tutti corrieri e sono pagati, sottopagati. E vabbè, comunque, poveraccio, aveva 50 anni mi pare. Sì, sì, un po' più piccolo di voi, ma cosa vuoi sia. Un giovanotto era, cavolo. Io, guarda, ne ho 60 e tutti me ne danno molto meno. Mi dicono massimo 53, così te ne diamo, 60, manca pensarci. E c'è gente di 60 anni che sembra vincere, la verità è questa. Sì, sì, no, da noi ce n'è uno invece in azienda che è più grande di noi, ma a parte che c'ha forse qualche capello bianco, i capelli ce li ha tutti, neri, belli, ma sono tutta la famiglia così, tutti i fratelli. Proprio non dimostrano l'età che hanno e hanno ancora 59-60 anni, sono tutti a scaletta questi fratelli e rimangono proprio bene, si conservano bene. Se non fosse per questa cosa qua dell'ulcera, cavolo, non starei male, perché fisicamente non sto male, solo che mi dà fastidio quest'ulcera nel piede, non si riesce, addirittura sono andato alla dottoressa, le ho chiesto delle medicine, le ho chiesto qualcosa per l'ulcera, cazzo si è dimenticato di farmi il foglietto, sì, le do una pomata che è molto buona e non mi ha dato nulla. E quindi non stai mettendo niente? Sto mettendo di pomate, ne avevo, cioè siccome io ho fatto tante cure e non ce n'è stata una, che anzi una solo, che mi ha fatto chiudere l'ulcera, però poi se ne è aperto. L'unica cosa è Yalo Silver Spray, che è uno spray tipo penicillina, rimane, esce umido e poi si fa secco e ti rimane attaccato all'apparecchio. Quello lì mi ha fatto guarire, me l'ha chiuso, infatti mi ero illuso, ho detto finalmente ci sono riuscito, dai. E invece capo, dopo un po' mi si è riaperto, e sotto c'era siero, cosa, mamma mia, vaffanculo. E ne ho tante, capito, c'ho il coso, l'argento, c'ho tante cose. E ogni tanto cambio, ma non c'è più verso, è una cosa cronica, non c'è nulla da fare, l'ha scritto anche il dottore nel documento che mi ha fatto, che è un'ulcera cronica. Che strano però che non si rimargini l'ulcera, siamo fatti strano. Mi ha fatto ricordare un signore che era venuto dalla parte di Cividale, nel Friuli, e soffriva, aveva questi talloni tutti spaccati in sangue, non riusciva neanche a camminare. Siamo venuti qua in vacanza e ci hanno fatto una passeggiata lungo mare a Platamona. Beh, questa persona è guarita, non sembrava che fosse Platamona, sembrava che fosse venuta a Lourdes. Sempre ci ringrazio ogni volta che ci sentiamo, l'acqua miracolosa di Platamona. E anche a me una riportatore si è detto, già, l'unica cosa da fare, dai retta a una vincia, a una macca, vai e poni rubiri a muggio, in leva salata, che la ferita ti guarisce in poco tempo, come te, migliore, ogni volta che si va di male, cosa andrà male, se ti vuole, a muggio. E cosa, perché gli succedono molte cose lavorando e cose, gli cade roba sul piede, gli spacca, ha detto lui va al mare, ci mette il piede a bagno e ripassa. Io invece ho paura di andare al mare perché mi entra la sabbia dentro, capito? Bene, stai attento a queste cose, sono al mare anche io, a volte entravo a pescare raffreddato, ne uscivo sano. Anche ieri mi tira un po' di mal di gola, sicuramente qualche sudatina al lavoro e poi ti metti all'ombra e ti becca un po' di mal di gola. Beh, ieri sera stavo pescando con una mareggiata lì verso la Gentiera, invece quando tu respiri l'aria carica di salsedine, passa, stamattina non c'avevo più nulla. Lo iudio è che ti fa passare queste cose, lo iudio, non c'è altra cosa che lo iudio, quando uno ha problemi respiratori, lo iudio che ti fa passare queste cose. No, il mare è una cosa tremenda. Anche a me